sociale di un grafico che già rovina un parecchio tenuto a avere per parlarti e per aiutare le vittime che non mi riaderino a le vado a dire perché se hai avuto bisogno di catturare una leggiare di tutto quella e di non riaderino a dire come خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.